Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Quale maschera ti metterai? Quella del vampiro. Ci viene sempre detto che non viene dal nostro paese, viene dal di là. Abbiamo rubato l'America. Però lo festeggiate. Penso per fare qualcosa. Non è una festa commerciale, vero? La danza degli zombie. Sì, noi benediamo qui le streghe, siamo qui per benedirle. Meglio Halloween. Halloween perché è una festa comunque che ha un tema. Carnevale invece no. Ci siamo. Per me sono i giorni più belli dell'anno, oggi e domani. Perché? Perché anche se i miei figli ormai sono grandi, prepariamo Halloween. Organizziamo e apriamo lo scatolone dei mostri che ogni anno alimentiamo. È vero, sì, io la stessa operazione la faccio con il presepe fino a qualche anno fa, ma non so perché alla fine hanno scelto. Vogliono le zucche, vogliono i denti insanguinati, vogliono i coltelli, vogliono i cervelli confezionati come fossero delle fettine al supermercato, vogliono le mani e i toraci viscerati. Ho di tutto, ho una testa mozzata bellissima, si attacca con un gancio al soffitto, è bella, trasuda sangue. Beh, impazziscono i ragazzi, faremo una festa bellissima. Questo è Halloween. Ma perché ci piace Halloween? Ci piace perché è una festa che scandalizza, che ancora ogni volta c'è chi crea delle situazioni di estrema presa di distanza da questa festa. Avete sentito le prime impressioni? È una festa consumistica. Che vuol dire? Ditemi una festa che non è consumistica. Fatevi un giro laddove si vendono ricordini sacri e non è consumismo quello. Ho una statua favolosa di Padre Pio, ma la comprerei se potessi permettermelo. La incrocio ogni volta che passo per Borgo Pio e mi piacerebbe averla. Quello non è consumismo. È una festa che fa divertire. Perché? Perché gran parte dell'immaginario fanciullesco, adolescenziale, ma anche adulto, è basato proprio su questo, sul grande esorcismo che abbiamo nella sconfitta del mostro. Oggi i mostri, i morti viventi, gli zombie, i vampiri, i lupi mannari, le streghe, le incontriamo ogni giorno, ma hanno facce comuni, facce consuete, facce riconducibili ai volti che sempre abbiamo incrociato nella nostra vita. L'abbiamo visti dietro le cattedre quando eravamo alunni a scuola, abbiamo visti dentro i confessionali, l'abbiamo visti dietro le scrivanie del potere, li incontriamo ogni giorno. Quei mostri lì, in qualche maniera, abbiamo sempre avuto scarsi mezzi per combatterli, ma una volta l'anno a noi ci è permesso di mozzare la testa al vampiro, di sparare pallottole d'argento contro il lupo mannaro, di aprire le viscere dello zombie, di fargli saltare la testa con un colpo di doppietta. Una festa importata, estranea alla nostra cultura sia spazialmente che temporalmente. Così definisce Halloween l'arcivescovo di Torino Nosiglia, che nella messa di ieri pomeriggio ha definito la festività di origini statunitensi puro consumismo. La prossima festa dei santi e la commemorazione dei fedeli defunti, tanto care alla tradizione anche familiare del popolo cristiano, da anni sono contaminate da Halloween. Marocchio e gatti neri, malefici misteri. Il grido di un bambino bruciato nel camino, nell'occhio di una strega il diavolo s'annega e spunta fuori l'ombra, l'ombra della strega. La vigilia ad ogni santi c'ha paura tutti quanti, è la notte delle streghe. Chi non paga presto piange. 800 24 00 24, voi come la pensate? Celebrerete, farete contenti i vostri ragazzi, vi divertirete anche voi nel festeggiare la notte di Halloween? Io ho accompagnato due simpatiche, affascinanti, seducenti signore nella giornata dell'altro ieri a fare acquisti. Hanno speso quello che è mediamente lo stipendio di un impiegato italiano in vestiti da strega. Una si è comprata un vestito da diavolo con la coda, con le corna, con le guepierre, l'altra si è vestita da vampiro, ha comprato il cilindro per il marito, ma il marito aveva il capoccione troppo grosso. Una scena nel negozio di argento, le vendono pezzi di cadavere zombie, telefonata: te lo misuri? Quanto ce l'hai grosso? E il marito ce l'ha 58, no? E poi ha comprato il cilindro, era troppo piccolo, deve andare a ricambiare il cilindro. Beh, ho visto impazzire signore, parlo di manager di alto livello, non parlo di signori che non hanno come impiegare il loro tempo. Beh, devo dire che evidentemente qualcosa c'è, perché ci affascina questa festa, perché la facciamo molto più volentieri, perché è una festa non ambigua, è quello, ammazza il mostro, vai per strada, diventa tu stesso mostro, confonditi tra gli altri mostri, e non c'è nessun disegno metafisico da condividere, bisogna prendere l'accetta e andare per strada, ammazzare i mostri. 80024 0024. Ecco il piano di battaglia per Halloween. Le case in rosso sono quelle dove danno i dolcetti migliori, le case in blu sono quelle dove danno solo uva passa, quindi le scartiamo. Poi prendiamo l'autobus per il quartiere Rancho Vista, lì sono ricchi sfondati e sganciano dolci giganti e biglietti di banca. Sai da cosa dovresti vestirti? Da troll, così non hai bisogno di truccarti. Veramente volevo vestirmi da essere più brutto della terra, ma te lo sei già messo tu il costume. Ora basta, Matt va bombardato. Che disdetta, arrivano mamma e papà. Nascondere catapulta. È bello che mentre nella società civile ci sono le persone che stanno facendo coalizioni, gruppi di preghiera, accendono ceri, fanno processioni contro l'invasione dei mostri la notte di Halloween, in realtà il mondo che alimenta l'immaginario delle persone non fa altro che seguire il filo di Halloween. E nei canali televisivi della TV satellitare ci sono dei fantastici speciali dedicati a Halloween. Stiamo guardando e riguardando la serie dei Simpson mostrificati, in cui si tagliano a pezzi, in cui rinascono ogni puntata dopo essersi segati a metà. Stiamo guardando i fantastici telefilm dedicati agli zombie, ai vampiri, ai lupi mannari. Abbiamo in qualche maniera ricostruito il fronte di coloro che sono per Halloween e coloro che sono contro Halloween, e vedremo questa mattina con gli ascoltatori di fare un punto. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno, io sono assolutamente per, che di più non si potrebbe. Non avevo dubbi. Silvana De Mari, ricordo, una scrittrice di fantasy, una saggista, psicoterapeuta e un'infinità di altre cose. L'ultimo saggio che ha pubblicato in ottobre è La realtà dell'orco, edizione Lindau. Silvana, velocemente, Halloween, la prima accusa verso Halloween è una festa che abbiamo importato, non ci appartiene alla nostra cultura cristiana. Halloween appartiene in pieno all'Europa, semplicemente non si chiamava Halloween nell'Europa meridionale, si chiamava Ogni Santi, ma appartiene a noi sia nell'Europa settentrionale che nell'Europa meridionale, ma attenzione, non appartiene alla parte dell'Europa illuminata dalla cultura, ma alla sottocultura, agli esseri inferiori, vale a dire alla cultura contadina. I contadini sono sempre stati considerati esseri inferiori, al punto tale che le parole che indica con contadino, cafone, buzzurro, sono parolacce. I contadini festeggiavano Halloween per conto loro. Io ho partecipato personalmente a una di queste processioni nel Canton Vaud, in Svizzera. Se chiedete a persone molto anziane, di 70-80 anni, di ambiente contadino, non tutte evidentemente, ma alcuni vi diranno che la notte di Ogni Santi si faceva senza il prete una processione dove si usavano le piccole zucche, non le grosse zucche statunitensi, le nostre zucchette piccole, svuotate, e mettete dentro una candelina. Quindi nel buio totale queste zucchette sono delle sfere appena luminescenti. Era la festa dei santi, i miei santi, nonno Luigi e nonna Carmela, non Santa Caterina da Siena e San Francesco d'Assisi. Quindi è una zona di ombra dove si incontrano i vivi e i morti, ed era la festa delle streghe. Le streghe, che non sono state perseguitate nel Medioevo ma nell'Evo moderno, e sono state perseguitate più in ambiente protestante che in ambiente cristiano e che in ambiente cattolico, questo molti non lo sanno, erano per il 94% dell'ambiente contadino. Erano la donna che curava con le erbe e assisteva i parti, la levatrice, quella che aiutava un po' nelle difficoltà. Qualche volta queste donne facevano disastri, nel senso che sbagliavano il dosaggio delle erbe, che non potevano misurare in milligrammi, basta che la foglia sia stata al sole o all'ombra che il dosaggio digitale cambia, oppure scatenavano disastri involontariamente, perché loro curavano prima Beppe che aveva l'erisipela, poi andavano a curare le due partorienti e chissà come mai tutti mi avevano distrutto cocco. Peraltro i medici non facevano meno disastri, basta l'episodio di Semmelweis. La strega apparteneva al mondo contadino, era stata portata via e non l'avevano protetta. Quindi Halloween è anche la festa del perdono, dove si chiede perdono, si dà il perdono, ci si rivede coi propri morti, ed è la festa delle luci nascoste dentro le zucche. Fermati un attimo, sentiamo subito invece alcune voci di persone che sono convinte che Halloween potrebbe essere una via aperta verso gli inferi. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, senta, io chiamo da Napoli, come ho detto. Io sono un credente, un cristiano evangelico, io lo sto chiamando proprio perché forse probabilmente prendiamo un po' sotto gamba quella che significa la festa di Halloween, cristianamente parlando, perché forse non sappiamo quello che significa attirarci, quelle che sono un po' gli spiriti, i demoni. Può sembrare strano questa parola nel 2012, però intanto per chi crede, anche io sono un credente evangelico, però anche i cattolici. Se lei crede in Dio, deve credere anche al diavolo, se no. Bravissimo. Vabbè, non è che ci vuole una scienza. Io però preferisco, signor Nicoletti, io però preferisco, credo è vero, sia nel paradiso che all'inferno, sia al diavolo che a Dio, ma preferisco personalmente non attirare né su me, né sulla mia famiglia e né su chiunque altro, pure il più nemico della mia vita, cose di questo genere. Noi perciò dico, quindi lei probabilmente scherziamo, la prendiamo un po' sotto gamba, però io la consiglio. Ma qual è il meccanismo per cui, no Alessandro, mi devi spiegare, qual è il meccanismo per cui se io metto una zucca con la candelina in casa, se mi vesto da zombie, si apre una fessura e entrano i diavoli, attraverso quale meccanismo? Purtroppo, allora, in Matteo 18, sapete cosa dice? Sì. Noi siamo coloro che possiamo aprire le porte o le possiamo chiudere, possiamo essere quelle persone che possiamo aprire porte al nemico, dove purtroppo lui a quel punto può fare quello che vuole nella nostra vita. Può sembrare strano, ecco, le dico al 2012, parlare di queste cose, ma io le posso assicurare, personalmente, io e la casa mia vogliamo servire l'Eterno e vogliamo evitare assolutamente di parlare di queste cose. E voi cosa la notte di Halloween cosa farete per controbattere questa sorta di grande sabba collettivo? Ma guardi, io personalmente dormirò. Se la fanno dormire, se la fanno dormire. Io, no, sì, sicuramente mi faranno dormire, anche perché io spero che quella notte, e voi lo sapete bene, voi ritirate 24, e più che altro tutto il mondo intero, si sa bene quello che succede, non solo giustamente in quella notte, ma in tutte le notti, quello che succede. E che succede? Quello che succede. Non sto qui a raccontare quello che potrebbe succedere. Sono cose che non si possono dire alla radio? No, ci saranno sicuramente gli stupri come ci sono stasera, domani o dopodomani. Questo cosa ci sarà? Non ho capito la cosa, succederà? Ci possono essere degli stupri da parte di persone. E quelli anche di giorno, purtroppo, accadono, sono all'ordine del giorno. Perciò dico, questo... Ma cosa c'entrano gli zombie con questo? Ah, perché fanno riti satanici, messe nere, queste cose qua? Sì, anche. Ah, quindi magia sessuale la notte di Halloween? Sì, allora noi perciò dicevo, purtroppo noi sottovalutiamo un po' questa cosa, a parte che viene dalla Scozia, dall'Islanda. No, le ha spiegato Silvana De Mari, comunque c'era anche alle nostre latitudini qualcosa di simile, una festa. Comunque lei, sì, giustamente, ha paura, metterà acqua benedetta, candele e immagini sacre intorno a casa sua e gli zombie non verranno a trovarla. Remo. Buongiorno Nicoletti, sono qui, ma io vedi, posso concordare con la signora che ha parlato all'inizio, Silvana De Mari. Sì, Silvana, che fosse una tradizione medioevale, questo non metto in dubbio, allora non c'era niente, quindi la gente usava qualche diversivo per sopperire alle fatiche quotidiane, ma adesso Halloween e quelle festicciole lì inventate dal cavolo, da quel popolo yankee americano. Ma non l'ha inventate gli yankee, cioè le sto dicendo. Attenzione, sì. Il consumismo di dolcetto scherzetto è suo, non ce l'hanno inventato i signori del Medioevo, il dolcetto scherzetto è suo. Io ma qualsiasi processione di santo patrono in qualsiasi paese d'Italia danno i dolci e fanno gli scherzi. Beh, io, guardi, ho avuto una formazione banalmente normale, cioè non vedo la differenza fra la festa del santo patrono in cui si comprano le noccioline e si lanciano i trick track e mettersi la zucca in testa e fare gli scherzetti di Halloween. Sinceramente non la vedo. Se notiamo bene non è così, perché tutti noi vediamo bene che passiamo per negozi, pasticceria, così ci sono tutte, perché si sa bene che domani sera c'è il dolcetto scherzetto. Vabbè, stiamo dicendo che siamo in recessione, se qualcuno dà un po' di movimento e fa consumare un po', secondo me non è proprio un male. Non è un male se la chiamiamo la festa del San Pasticcere, sono perfettamente d'accordo con lei, però se andiamo a tirare fuori delle tradizioni antiche che vanno benissimo per Bacco, sono culture che dell'Europa andavano bene, però non credo che in quel periodo ci andasse per porta a bussare. Ma secondo lei chi si va a divertire domani sera pensa se la tradizione antica, moderna, austro-ungarica o macedone, ma cosa gli interessa? È una festa divertente? Non lo so, questo voglio capire. Nicoletti, una cosa, per divertirmi non ho bisogno che un altro mi dica che devo divertirmi. Io quando decido di divertirmi lo faccio e basta. Che sia questo è un punto di vista, sai? Io mi diverto quando vedo che gli altri si divertono anche tante volte. Vediamo che bel divertimento abbiamo poi domani sera. C'è qualche ragazzino che va in giro, basta guardare la mia città dove abita Ferrara, qualche ragazzino che va in giro e basta, non si vedono più altri. Perché la sua è città triste, invece domani sera a Roma vedrò un sacco di gente per strada, tutti allegri, ubriachi, e andranno a festeggiare, sarà una bella allegria. Va bene, ognuno è bello il mondo perché ci sono punti di vista diversi. Lorenzo Croce, buongiorno. Buongiorno. Lorenzo Croce è presidente dell'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente e ha una sua particolare, invece che diciamo teorizzare, utilizza un'iniziativa pratica per, a modo suo, frenare o arginare quello che è un effetto concreto alla festa di Halloween, che sarebbe lo sterminio dei gatti neri, qualcosa del genere. Sterminio magari no, diciamo che c'è purtroppo questa notte coincide per alcuni deficienti, perché si tratta di deficienti, con un antico rito utilizzato da gruppi pseudo-satanisti dove si uccide il gatto nero, perché una volta si pensava appunto che il gatto nero potesse portare la forza, eccetera eccetera. Noi da 7 anni, nelle zone che sappiamo esserci stati questi riti, mandiamo in campo un po' dei nostri volontari, saranno qualche centinaio domani sera, per verificare che non succeda niente. Questa è una cosa veramente molto brutta. Se voi avete prove concrete, pratiche, che qualche deficiente, a parte non vedo il perché dovrà ammazzare i gatti neri. Vendono dei gatti di polistirolo, di plastica, bellissimi, fantastici, con gli occhi fosforescenti, con i led luminosi. Cioè, il bello di questa festa è una festa che ricostruisce in maniera innocua quelli che erano dei simboli che ci hanno sempre spaventato, hanno sempre avuto dei significati inquietanti. A lei risulta ci sono persone che la notte di Halloween vanno a cerca di gatti neri per fare i rituali demoniaci. Non è che a me risulta, ci sono delle denunce, ci sono stati dei fatti in questi 7 anni che dimostrano che non solo la notte di Halloween, ma anche nel solstizio di primavera, nel solstizio d'estate, ci sono alcuni gruppuscoli che sono al di fuori, che usano praticare questi sacrifici. Chi già pratica, ma arti sataniste fa questo. E come funziona, diciamo, la ronda anti assassino di gatto nero? Niente, ci saranno dei gruppi, noi abbiamo individuato queste zone, che sono quelle dove durante l'anno ci hanno segnalato queste presenze. Esattamente dove? Qual è, diciamo, il triangolo del gatticidio? Beh, è più di un triangolo, sicuramente la zona di Torino, del Piemonte, della Valpellice, c'è il Basso Varesotto, il Pavese, la zona, insomma, sono diversi, in Toscana, nel Mugello, dove abbiamo già avuto dei sacrifici strani in questi giorni. Cosa avete visto di sacrificio strano? Beh, nel Mugello hanno ucciso un gatto e gli hanno tagliato le zampe durante un rito, abbiamo ritrovato il corpo senza le zampe. Quindi non sono fantasie, sono cose concrete? No, questa c'è una denuncia penale, c'è un'inchiesta aperta dei carabinieri del comando di Londra, che è un piccolo paese del Mugello. Quindi se lei potesse dare, diciamo, dei consigli, chi ha dei gatti domestici li tenga in casa in questa notte. Sì, ecco, senza fare allarmismo, perché il fenomeno è un fenomeno legato soprattutto alla sfortuna. Infatti noi concluderemo questo ciclo che inizia con le ronde il 17, celebrando la giornata del gatto nero, che quest'anno facciamo. Ecco, ma rischiano soltanto i gatti neri o i gatti in genere? Gatti neri e bianchi, perché dipende da chi... Quindi da chi i gatti, quelli tigrati, stanno tranquilli. Il gatto nero, sì, perché il gatto nero è considerato, come diceva giustamente prima la scrittrice, specialmente nel mondo cristiano più protestante che cattolico, era considerato abbinato l'animale della strega, quindi quando si bruciavano le streghe sulla bolla di Papa Paolo II venivano poi bruciati anche i gatti neri insieme a lei, quindi qualche pazzo che tramanda questa roba c'è ancora. E quindi buona regola sarebbe, diciamo, iniziando da oggi, chi ha un gatto nero, chi avesse un gatto nero, lo tenga in casa, ecco, almeno sì, soprattutto chi ha dei gatti neri da far adottare aspetti qualche giorno, perché è capitato purtroppo che questi gatti fossero adottati e poi scompaiono nel nulla. Che infami, vanno ad adottare il gattino fingendo di essere, diciamo, gli animanti e gli animali, e poi li sacrificano. Sì, potrebbe essercene qualcuno, ripeto, stiamo parlando di casi sporadici, stiamo parlando di una situazione che interessa qualche decina di gatti in tutta Italia, però Vabbè, però vale anche la pena per 10 gatti di mobilitarsi. Quanti sono i volontari più o meno che avete mobilitato? Questa è una bella domanda. Li stiamo valutando adesso, sicuramente sono più di 300, ma abbiamo anche domande, anche perché quest'anno le zone... Quindi ogni gatto a rischio ha 30 persone che si occupano di lui, mi sembra una buona salvaguardia. Beh, bisogna vedere, diciamo che ci sono molte zone da preservare, ovviamente noi non facciamo le ronde con i bastoni, se trova qualcosa di fuori posto chiama le forze dell'ordine e queste intervengono. È successo che abbiamo trovato altre situazioni simili nei cimiteri, che magari non facevano sacrifici ma erano sulle tombe a fare qualche rito strano, siamo intervenuti in più di un'occasione. Vabbè, se uno si volesse accoppiare sulla tomba può farlo, questo non, basta che non dà fastidio ai gatti. Anche però, su questo intendo. No, per sapere lo spettro però, del vostro intervento. Noi ci occupiamo di gatti, però ovviamente se già che ci siete. Situazione che è al limite, non è che facciamo finta di niente, chiamiamo. E l'obiettivo comunque è quello di preservare i gatti neri e allo stesso tempo però di non fare allarmismo, ma proprio di spiegare che insomma di lavorare contro, tra virgolette, la sfiga, la sfortuna che si intende portata dal gatto nero. Queste sono soprattutto iniziative. E questa è una leggenda che va sfatata. Stanno arrivando segnalazioni a Iosa sulle intemperanze la notte di Halloween, che poi sono le stesse che accadono ogni notte, però quella notte in particolare, essendoci sopra il grande pregiudizio che sia la notte alle streghe, tutti tendono a sottolinearle. Stiamo parlando dell'ammissibilità della notte di Halloween come lecito diritto di divertirsi anche con zucche e teschi e lupi mannari da parte di chiunque, ma no, c'è sempre questa idea che sia un'americanata. Maria Adele, buongiorno. Buongiorno, mi scusi l'emozione. In parte mi avete prevenuto parlando dell'estensione del rito alle nostre latitudini. Io sono Ciociara e volevo dirle che a Frosinone noi bambini partecipavamo subito dopo la guerra, io sono nata nel 47, al rito proprio di intagliare la zucca come si fa oggi, perché dalle nostre parti si producevano le zucche rotonde, diciamo, di questo genere, e si tagliavano proprio con gli occhi triangolari, con la bocca... allo stesso modo in cui poi è diventata... Voi non sapevate nemmeno cosa fosse Halloween? No, guardi, non sapevamo nemmeno cosa fosse, le dirò di più, si mettevano nella notte praticamente non ricordo se era il 31 o la notte del primo, ma era un rito fatto per i defunti. È la notte di ogni santi sarà stata. Sì, cioè si invogliavano i defunti o i fantasmi dei defunti, diciamo, a ritornare alla casa, o si dava una dimostrazione che nella casa comunque c'era qualcuno che vigilava su di loro. Quindi noi non eravamo spaventati e non legavamo a fatti negativi, diciamo. Ancora non esistevano i film di zombie, di vampiri, cioè erano le naturali maniere di rapportarsi fra vita e morte. Di affetto al morto, capisce? E quindi era una cosa, io ricordo che ci mettevamo appunto addirittura, perlomeno io e i miei cugini, nella manifestazione proprio anzi di attesa, perché dopo che avevamo acceso la zucca e l'avevamo messa sui davanzali, ci mettevamo dietro la finestra, un po' come per l'arrivo di Babbo Natale o della Befana. Se arrivava il nonno morto... Che arrivasse qualcuno, sì, diciamo, a trovarci o che venisse verso casa. E l'avete mai visto nessuno? No, però diciamo per noi era una cosa legata appunto ad un immaginario che non era spaventoso. Quindi lei conferma quello che aveva detto all'inizio Silvana De Mari, poi avrà modo di spiegare anche meglio. Però abbiamo a questo punto un'altra telefonata di un'altra persona che in realtà sta in totale buona fede e in senso di oggettiva giustizia, facendo la sua battaglia personale contro Halloween. Don Marcello Stanzione, buongiorno. Buongiorno. È il parroco della chiesa situata a Campagna, in località Santa Maria la Nova, in provincia di Salerno. Lo abbiamo tirato fuori un attimo da un ritiro spirituale che sta facendo con il suo vescovo, perché ha qualcosa da dire rispetto alla festa di Halloween. Don Marcello. Perché innanzitutto io non faccio battaglie o crociate, anche perché chi fa le crociate viene sempre mal visto. Semplicemente da sacerdote, cioè da educatore alla fede, siccome questa manifestazione di Halloween coincide con i primi vespri della festa di tutti i santi, nella mia parrocchia, ma anche in tantissime altre parrocchie cattoliche, c'è la manifestazione di quelli vestiti come i santi. Che cosa facciamo? C'è una preparazione nelle settimane precedenti, tutti i bambini e i ragazzi del catechismo ricevono una scheda con l'immagine del santo di cui portano il nome e con una breve biografia del loro santo, perché c'è un fatto molto interessante: tantissimi bambini non sanno quando festeggiano il loro nome. Sembrerà strano, ma sempre più i genitori mettono dei nomi che però magari non sono riferiti al santo con quel nome. Quindi i bambini fanno una ricerca e poi le mamme... Se uno si chiama nonne, Kevin, che santo è? Ci sono questi nomi strani che danno... Su internet. Certo, e magari sì. Se non è santo, il bambino sarà invitato a diventare santo, cioè un eroe di Dio, eccetera, eccetera. Allora, è una manifestazione sinceramente molto bella, perché tutti i bambini... Cioè lei si è inventato che invece che mascherarsi da mostro da vampiro, ti maschi come il tuo santo patron, cioè il tuo santo protettore, ti chiami Giovanni come San Giovanni, ti chiami Giovanni Pietro Battista, come... Giovanni Evangelista, Giovanni Battista della Salla... Ma è anche interessante, perché sono l'iconografia santi divertentissima, c'è quello che, non so, San Lorenzo con la graticola, San Gerolamo con la testa sotto braccio, cioè volendo... Anche in questo si presta a vestirsi in maniera fantasiosa. I santi sono rappresentati con lo strumento del loro martirio, quello col segone grosso, quell'altro con la lancia, quell'altro... Per esempio chi si veste da San Michele Arcangelo con le ali e con la spada e con lo scudo, i bambini che si... È più fortunato, quello è più fortunato. Chi si veste da Sant'Antonio del Deserto, però poveraccio, niente, un misero saio... Dovrebbe portare il porcellino. Ah, può portarsi un maiale. Essendo un posto di campagna, i porcellini non mancano. Allora le dicevo, noi facciamo questa manifestazione a cui partecipano anche tantissimi adulti. Quindi è molto movimentata, non è che sono vestiti tutti uguali con una tunica come nel presepe vivente. C'è la fantasia al potere, la fantasia in base anche all'iconografia del loro santo. Io stesso che mi chiamo Marcello, festeggio il 16 gennaio San Marcello Papa, mi vesto da Papa nonostante che io sia... Ah, con la tiara, proprio con tutto la tiara. Ah, però ce ne sono tanti di santi papi. Sì. Allora, facciamo questa... fiaccolata vestiti da santi. La cosa bella è che ci sono tantissimi adulti che partecipano vestiti con il santo di cui portano il nome. Durante Santa Lucia col piattino con gli occhi e Sant'Agata con il piattino con le tette. Infatti, è bellissimo. Infatti, sì. Beh, allora, diciamo che è molto divertente. L'ha inventata lei questa cosa? L'ho letta che un sacerdote di Bari 20 anni fa iniziò a fare questa manifestazione. E che cosa facciamo? Durante il tragitto cantiamo le litanie dei santi, poi c'è la Santa Messa con una catechesi sui santi per i... Ma perché lei ce l'ha con Halloween però? Perché ha sovrapposto questa... Allora, a me sembra una festa grottesca e anche demenziale. Allora, tante volte io quando ero giovane, prima di entrare in seminario, andavo al cinema, vedevo che tante persone ridevano perché c'erano battute volgari, parolacce, eccetera, eccetera, no? Devo dire che al di là della mia... vita sacerdotale, ho sempre pensato che nella vita bisogna avere un certo stile, allora bisogna divertirsi ma con intelligenza, con buon gusto, eccetera, eccetera. Lei per il rigore però giustamente fa la sua missione. Perché anche se non fossi stato un prete, un sacerdote, uno che ha dato la vita per questo ideale, sinceramente Halloween non mi avrebbe mai... ha un suo personale, sta facendo una sua personale battaglia per, invece che protestare vagamente rifacendosi ai principi, lei si è inventata la sua festa anti-Halloween, che è anche divertente. Devo dire una cosa, che Halloween per noi è una benedizione, mi spiego, lei sa meglio di me che la religione cattolica ha oltre 2000 anni. Sì. Allora potrebbe correre il rischio di essere una religione invecchiata, no? Stagionata, ammuffita, noiosa. Allora, il fatto che Halloween ci dia delle provocazioni è positivo, perché probabilmente se non ci fosse stato Halloween, io e tanti altri preti non avremmo avuto questa idea ulteriore di fare quelli vestiti come i santi. Facciate la solita messa dei santi che fate sempre. Bravo, così. Bravo, avremmo fatto la solita messa dei... Nessuno ci credeva più, invece adesso così... La gente ci crede, però non entra nel vivo. Lei sa meglio di me che quando le cose si ripetono sempre... L'allegoria è importante. Entra una certa forma di noia, e quindi... Voglio dire che alla fine tutte le situazioni, diciamo, difficili... L'aspetto che ha toccato molti nostri ascoltatori della possibilità di aprire degli spiragli di passaggio a forze maligne, demoniache, attraverso la rievocazione di rituali satanici e cose del genere, è d'accordo in questo? Io sono d'accordo. Allora, tenga presente che innanzitutto si crea un clima di simpatia verso queste correnti occultistiche, no? Io penso che buon senso direbbe teniamoci lontano da maghi, streghette, queste cose qui, buon senso. Poi, non so, certe persone in effetti come festeggiano Halloween, e allora magari ci potrebbero essere anche dei rituali negativi, spiritici, eccetera, eccetera. Anche la promiscuità, molte volte bevono. Ma lei sa alla fine che tutte le feste di un certo tipo poi finiscono anche nella promiscuità sessuale, eccetera, eccetera. Ecco, questo è bene alla evitarlo, con i santi almeno non c'è questo pericolo, diciamo la verità. Ma io penso che se uno vuole fare un'orgia, se la facesse senza mettere in mezzo Halloween, cioè come scusa, alla fine si va a finire sempre... Non bisogna prendersi in giro, anche nella depravazione bisogna essere onesti. Vuoi essere depravato? Ma è meglio di me, che se uno si vuole portare una donna a letto glielo dice. No, io non lo so, magari reverendo, se lo sapessi avrei risolto tanti problemi. Magari se questo diceva, organizziamo una bella festa di Halloween, c'è qualcuno che ci cade. Cioè voglio dire, spesso ci sono tanti... Non diamo pretesto alla depravazione, mi sembra logico. La lascio, reverendo, ai suoi esercizi spirituali, grazie. Silvana De Mari, ti ho dato un parterre di riflessione abbastanza ampio. Sì, allora, una sola cosa. In Sicilia i morti portano i dolcini ai bambini e lo stesso vale in Messico, proprio perché questa tradizione esisteva anche da noi. La più bella tradizione, il giorno dei morti in Messico, è la festa più grande che esista. Esatto, dolcini. E non è un paese certo laico, ecco. Certo. E la festa di Halloween che fa ripartire ogni santi è bellissimo. Perché a un certo punto la cosa più terribile è che tutto sprofondi nella noia, ma c'è un'ultima cosa. Quello che è stato detto è assolutamente vero. Se Dio esiste, esiste anche il demonio. E qual è la caratteristica, se Dio esiste, di Dio? L'amore. E quindi Dio ama il riso, il demonio non lo sopporta. E tutti i suoi servi, Hitler, Stalin, quelli che mettono a morte la gente per una vignetta più o meno divertente fatta in Danimarca, è tutta gente che non ha senso dell'umorismo. I satanisti odiano Halloween, Halloween quello cacciaroso, fetente, coi bambini, coi dolcini fatti a forma di zucca, che peraltro sono buonissimi, ma lasciamo perdere, ne è scappata. Sì, perché il diavolo è Tristanzuolo, diciamo la verità, è triste, esatto. Veramente, sì. Il riso fa scappare il demonio. Il demonio non è senso dell'umorismo. Se volete metterlo in crisi, prendetelo in giro. Per quanto riguarda l'America, è vero che risalta fuori in America. Perché? Perché l'America è l'unico luogo al mondo dove i contadini hanno vinto una guerra. La rivoluzione americana altro non è che una guerra contadina che incredibilmente non ha avuto successo. In America la cosa fondamentale è la terra, non terra nel senso di ducato di Sassonia, perché non c'è il ducato di New York e il baronato di Chicago. La terra nel senso di posto che si coltiva, di vacca. Quindi negli Stati Uniti la sottocultura contadina disprezzata in Europa a fiore diventa cultura, che è il motivo per cui noi trattiamo gli americani da lato in basso. Questi fanno ste robe come la festa chi mangia più hamburger, che noi guardiamo con orrore. Peraltro loro avevano... Beh, anche noi facciamo le gare dei rutti, dai Silvana, anche noi facciamo gare dei rutti nelle nostre campagne, ma infatti, non soltanto. I nostri intellettuali ci guardano da lato in basso. Ok. L'America è un posto che, sì, sono anglosassoni, quello che è vero, sono anglosassoni nel senso che prima arrivati erano inglesi. Allora tutti hanno cominciato a parlare inglese, ma se noi guardiamo la genealogia degli americani, i loro cognomi, c'è un enorme numero di tedeschi, Steinbeck, Roosevelt, Eisenhower, sono tutti cognomi tedeschi. I tedeschi hanno buttato nella festa di Halloween l'orrore dell'inquisizione subita in Germania. La Germania è stata la nazione, ancora più della Spagna, di Torquemada, a pagare il prezzo per il martirio delle streghe. Quindi la festa di Halloween, insisto, è la festa del perdono, dove nessuno ci impedisce di recuperare anche ogni santi, anzi... Ma deve esserci anche questa parte qui, deve essere il ridere del mostro, deve essere diventare il mostro, deve essere il ridere della morte, perché la morte, come il sesso, ci fa paura. Allora noi esseri umani, quando qualcosa ci fa paura, ci ridiamo sopra, ma questa è una reazione... Solo che la prima facciamo di tutto per provarla, la seconda ci teniamo lontani il più possibile. Vito, buongiorno. Buongiorno. Vito, lei è sindaco di un piccolo comune dove? Di un piccolo comune della provincia di Bari, esattamente Binetto. Siamo a 16 chilometri da Bari. E cosa accade a Binetto? E cosa accade a Binetto? Le dico subito, io seguivo la vostra discussione su Radio 24, ho ritenuto intervenire perché... pur restando lontano, insomma, dalle analisi che bene ha fatto la dottoressa De Mari e anche il parroco che mi ha preceduto, e non voglio, inoltrarmi in queste due posizioni che dal loro punto di vista sono difendibili tutte e due, però io da sindaco devo guardare un po' l'aspetto generale, l'aspetto globale della manifestazione. E ahimè, dico ahimè, ieri ho dovuto firmare un'ordinanza rispetto alla festa di Halloween perché purtroppo lo scorso anno questa festa è degenerata ed è degenerata in atti di vandalismo che hanno creato dei grossi problemi nei confronti, insomma, di molti cittadini. Quindi la sua ordinanza che nessuno si possa mascherare? Allora, che nessuno si possa mascherare, cioè io non ho ordinato l'annullamento della festa. La festa può venire, cioè può essere fatta un po' da tutti, di chi ne ha voglia, da chi la condivide. Ma cos'è vietato? Cioè coprirsi il volto, rendersi irriconoscibile? È vietato coprirsi il volto, perché io credo che un po' tutti... Però da vampiro è possibile, vampiro solo con dei denti è possibile. Nel momento in cui ognuno di noi si maschera il viso, credo che purtroppo per una questione che stravolge, insomma, il proprio modo di essere, tira fuori il lato peggiore di se stesso. Ma cosa è accaduto? Cos'è accaduto nel suo comune l'anno passato? Beh, si sono spaccati dei vetri, si sono rotti dei citofoni, hanno rotto anche delle strutture pubbliche e quindi, insomma, si è fatto un bel danno. Festeggiare dentro casa è possibile? Dentro casa è possibile? Sicuramente sì, questa ordinanza non limita assolutamente la festa. Limita i personaggi, limita le persone che vanno in giro travestiti. I bambini possono andare a fare dolcetto scherzetto? Sicuramente sì. Cioè gli adulti non si possono mascherare da rendersi irriconoscibili? Non si possono mascherare perché purtroppo l'esperienza dello scorso anno del mio paese, ma non solo, sento anche di qualche altro paese qui vicino, ha dato effetti negativi. E siccome in ogni caso bisogna tutelare la sicurezza di tutti, evidentemente la maturità ancora di certe persone non ci permette di acquisire, anche se vogliamo, queste nuove... Abbiamo capito che esiste anche la possibilità di fare delle ordinanze per limitare i danni a lui. Francesco. Sì, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sono un po' emozionato. Niente, io volevo raccontare quello che praticamente succede in Sardegna la notte dei morti. Praticamente è usanza preparare la cena ai defunti, perché si dice che tornino a casa, e quindi si preparano quelle pietanze che piaceva al nonno che è venuto a mancare, eccetera. Il discorso che... E poi chi se le mangia però dopo? Li mangiavamo noi bambini, nel senso che gli adulti, come andavano a dormire, noi aspettavamo appunto che andassero comunque a dormire. Lei mi conferma che è una notte in cui c'è passaggio fra vivi e morti, quindi girano fantasmi in ogni caso, anche nella tradizione popolare sarda, non è una notte come un'altra, ecco. No, è una notte particolare. Allora, fantasmi non ne ho mai visto. La mattina da mangiare non ce n'era più perché avevamo fatto noi manbassa, però in tutte le case si vedono, si spengono i televisori, giustamente, perché comunque i bambini aiutano. Io mi ricordo almeno, io aiutavo mia mamma a preparare le pietanze, che so, a mio nonno piaceva il formaggio, quindi si preparava con la foto del defunto sul tavolo da pranzo, quindi la foto con lo formaggio, eccetera. Io adesso questa cosa, che abito qua a Milano, la sto portando, cercando di trasmettere ai miei figli. Ecco, ma lei invece, i suoi figli di Halloween cosa ne dicono? Si vestono anche loro da mostro? Ma allora, uno ha 3 anni, l'altro 8 mesi. Ah, beh, quindi ancora. E li veste stasera, quando sarà adesso, quando arriverà Halloween, il bambino ha paura delle maschere. Però gli metterò un domino e lo porterò a fare il dolcetto. Ah, beh, quindi c'è una contaminazione. Silvana De Mari, mi sembra di aver capito che comunque Halloween non fa altro che ribadire un clima che si è sempre respirato nelle nostre campagne, nelle nostre province, ma si è perso poi nel processo di inurbazione. Halloween lo fa riscoprire, perché il signore sardo che fa i dolci dei morti con la foto del nonno morto e che pensa che il fantasma venga a mangiarsi, non vedo molta differenza fra me che mi vestirò da zombie, sempre morto si tratta. Sì, infatti è un momento in cui incontriamo i nostri antenati, i santi nel senso di nostri antenati. Quindi riprende anche questo, è vero, il culto pagano degli antenati, da un punto di vista possiamo dirlo, ma anche nel cristianesimo i miei antenati sono importanti, l'amore per mio padre, l'amore per mio nonno, quello che loro hanno avuto per noi, il ricordo è comunque importante. Giustissimo quello che ha detto il sindaco, perché è innegabile che la maschera scatena i peggiori istinti di coloro che i peggiori istinti ce l'hanno, e non essere riconosciuto ti leva la responsabilità. È lo stesso motivo per cui a volte su internet, dove è permessa la deresponsabilizzazione, le persone si scatenano. In più, anche se tu questa sera ti vesti da zombie, Halloween dovrebbe essere una festa. È che non devo fare grande fatica, capito? Cioè, non è basta, vero, basta pochissimo trucco. Non si fa fare i complimenti in diretta. Allora, peraltro, insisto che qualsiasi cosa dove ci sia il riso, il demonio non lo regge, nel senso che la nostra potenza è il riso. Questo mi fa pensare, capito Silvana, una festa che viva Dio è una festa di solo divertimento, provoca la levata di scudi, perché è una festa in cui non c'è mortificazione, non c'è macerazione, la gente si masca solo per divertirsi, non posso, si fa grandi problemi. Posso dire una cosa che scatenerà un altro linciaggio, tanto ormai ce ne siamo beccati tanti. Dentro il Signore degli Anelli non c'è la magia, ma c'è una cultura di vita che vince contro una cultura di morte. Lì dentro ci sono i valori del cristianesimo. Dentro Harry Potter, dove la magia è solamente un espediente narrativo, ci dicono che il maggiore incantesimo è l'amore, una cultura di vita che vince contro una cultura di morte. Il cristianesimo è anche lì dentro. Senti, che ne dici invece del prete che ha reinventato la festa dei santi? Mi sembra un'ottima cosa, chiunque reinventa. È divertente. Il nostro teatro nasce dalla rappresentazione. Sì, Silvana, dammi atto che è un'altra rassegna terrore, perché nell'iconografia dei santi martiri ognuno ha in mano strumenti terrificanti, graticole, no, motoseghe. Attenzione, i santi martiri sono martiri della libertà di parola e ci possono anche ricordare il coraggio. Halloween è una cultura di vita che prova a desiderare la morte. Poteva nascere, scusate, è nato negli Stati Uniti e in Europa e negli Stati Uniti, quindi è nato in un posto dove i valori del riso, i valori della vita sono alti, anche questo scandalizzerà tutti. Halloween è figlio della spiritualità cristiana. E detto questo, è vero, qualche volta c'è una sguaiataggine di troppo, c'è un mucchio di gente che esagera, ma l'esagerazione, l'orrore, il male, quelli che cercano di qualsiasi scusa per fare dei danni, incluso uccidere i poveri gatti neri, sono sempre esistiti. Adesso, fortunatamente, sono all'opposizione. Prima, invece, erano al potere. I gatti neri venivano ufficialmente presi, ufficialmente bruciati, insieme alle streghe. Halloween ci serve anche per ricordare questi gatti. Quindi anche la crociata dei 300 gattari che gireranno domani a salvaguardare la vita dei gatti neri in fondo ha un senso, come dice Silvana De Mari, perlomeno oggi ufficialmente non c'è nessuno che può dire che possono essere bruciati cristiani, nel senso di essere umani e gatti assieme, perché? Perché probabilmente istigavano e davano l'idea che si potesse anche sorridere, si potesse avere anche questa ineffabile possibilità di esprimere la propria leggerezza. Grazie Silvana De Mari, grazie Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, a domani.